244. Salsiccia con l'uva. È un piatto triviale comune, ma lo noto perché la salsiccia, con quel dolce acidetto dell'uva, potrebbe darne il gusto a qualcuno. Bucate le salsicce con la punta di una forchetta e mettetele in tegame così intere con un poco di lardo burro. Quando saranno cotte, unite l'uva, non in quantità, a chicchi interi e fatela bollire finché si strugga a metà. La salsiccia sola, poi, oltre che in gratella, può cuocersi intera in un tegame con un gocciolo d'acqua.